3, 2, 1. Puntata numero 19 dell'Incredulo, il programma di Radio Big World dove c'è un incredulo dentro che sono io, incredulo perché mandiamo, ci riempano di scemenze attraverso internet, ci riempano di scemenze attraverso il telefonino e YouTube, ormai tantissimi predicatori, santoni, guaritori su YouTube, se uno ha un problema va su YouTube, trova mille soluzioni e probabilmente non funziona nessuna di queste o quasi nessuna, e quelle che funzionano probabilmente c'è da sganciare parecchi soldi, perché si ritorna lì, tutti tirano al nostro portafoglio e allora noi increduli non ci facciamo fregare, noi andiamo solo dove c'è una targa con un bel timbro, dove c'è scritto riconosciuto dalla scienza. Tuttavia effettivamente l'altra sera un ex famoso calciatore ci ha parlato in radio di, ovvia, fuori dai microfoni, il fuori onda, insomma, ci ha parlato di una guarigione miracolosa di suo figlio che era stato spacciato dai medici, riuscì ad andare in America e tramite un professore, uno di quelli che studia all'università, tramite questo professore è riuscito a risolvere il suo problema, perché il professore si è rivolto a scienze non convenzionali, mettiamola così. Pertanto tanto vale ascoltare anche un'altra campana. Ci siamo scelti ovviamente per ascoltare un'altra campana, non qualcuno che viene da YouTube e che tenta di spacciare per vero delle baggianate, perché la nostra esperta, l'esperta dell'incredulo, l'esperta di Radio Big World è Elisa che oggi finalmente ci parlerà di qualcosa scientifico. Elisa? Buongiorno e benvenuto Giorgio e benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Big World. Oggi vi prometto che staremo abbastanza scientifici e non vi parlerò delle mie solite magie e pozioni magiche, ma vi parlerò di un argomento che bene o male è abbastanza di moda. E quindi tutto quello che ci sta dietro al veganesimo. Ah, il veganesimo! Elisa, ci mancava pure questa. Ma dai, ma i vegani ce lo fanno vedere in televisione? Sono quegli sciroccati che mangiano la roba cruda, che bruciano l'erba nei balconi. Andiamo, ma siamo nel ventunesimo secolo. Come si fa a credere a queste boh, fricchettonate? Ci si crede perché le persone che hanno scelto questo tipo di regime alimentare, che sia per moda, che sia per salute o che sia per scelta etica, stanno aumentando esponenzialmente, prima di tutto negli Stati Uniti e poi in tutta Europa. E ci sono sempre più atleti e personaggi famosi che scelgono questi tipi di alimentazione. Una famosa è la tennista Serena Williams, Lewis Hamilton, oppure Natalie Portman, per fare alcuni esempi, che sono fra quelli che comunque stia facendo, chi per un verso e per un altro, comunque lavori abbastanza, diciamo, con orari strani e di fatica, hanno abbandonato del tutto gli alimenti di origine alimentare. Scusa, di origine animale. Elisa, facci capire per tagliare la testa al toro, non so se questo è un proverbio vegano, che cosa mangiano i vegani e che cosa non mangiano? Non mangiano nessun tipo di alimento di origine animale, quindi niente carne, niente pesce, niente latte, niente derivati del latte, formaggi, ogni tipo di latticino, niente uova e nemmeno altri alimenti prodotti da altri insetti come può essere il miele. Perché il vegano non mangia prodotti di origine animale. Ora, comprendo il bue che viene ucciso, macellato, o l'agnellino che viene sgozzato, ma per esempio l'uovo, che come dice un'amica mia, scienziata, scientifica, scientificamente, che è praticamente una mestruazione. Non vengono mangiate le uova perché, per quanto le galline possano essere allevate a terra e trattate bene, vengono comunque sfruttate. Nella maggior parte degli allevamenti alle galline viene tagliato il becco per evitare di ferirsi, di farsi male, vengono costrette a produrre uova e comunque sia dietro c'è uno sfruttamento. Come si potrebbe pensare al miele, comunque sia vengano le api, vengano allevate, usate e spostate a volte di fattoria in fattoria per impollinare. Quindi, che ne so, se pensiamo alla produzione del mandorlo, quindi per far sì che il mandorlo produca le mandorle vengano usate le api, e queste api vengono prese, diciamo così, a noleggio da chi fa l'allevatore. Quindi anche in questo caso le api non sono libere di scegliere dove andare a impollinarsi, ma vengono obbligate a lavorare per noi. Quindi, almeno dietro a una parte del movimento è in discussione il rapporto uomo-animali, e pertanto il veganesimo, rifiutando di consumare questi prodotti, cerca di contestare, cerca di contrastare l'atteggiamento umano corrente, ma che poi è sempre stato quello nei confronti degli animali, e cioè dello sfruttamento, del profitto, dell'economia. Esatto, ma non solo, va contro a tutto quello che gli allevamenti intensivi provocano, quindi l'inquinamento dovuto alla produzione di gas serra che emettono tutti gli allevamenti intensivi. Quindi ha un peggioramento all'inquinamento, ha un innalzamento della temperatura del globo terrestre, e che più ne ha più ne metta. Quindi diciamo che oltre al rispetto degli animali sono proprio contro tutto ciò che l'era moderna ha portato, e quindi un peggioramento e del pianeta. Se si tiene presente anche che tutto il grano che viene usato per allevare queste povere mucche, che vengono comunque tenute in condizioni, o maiale, che vengono tenute in condizioni bruttissime, potrebbe essere usato per produrre, che ne so, soia o altri tipi di raccolti che potrebbero andare a sopperire alle proteine della carne e del pesce. È stato l'economista Jeremy Rifkin il primo a denunciare il fatto che non erano tanto le fabbriche o le auto a emettere grosse quantità di CO2 quanto proprio gli allevamenti intensivi, e parliamo della fine degli anni 90. E Elisa ha tirato fuori un problema non da poco, e cioè non è tanto o solo dove gli animali stanno, ma quello che mangiano, e in particolare la quantità di terreno che serve per crescere quei cereali o quei prodotti che comunque verranno dati da mangiare a questi animali. Non dimentichiamoci che una bella fetta dell'Amazzonia sta vivendo un processo di disboscamento proprio per coltivare soia che serve a alimentare i maiali nel primo mondo. Ma a parte questi aspetti etici e morali, definiamoli così, quanto pesa nella scelta di diventare vegani anche il nostro difficile rapporto con la carne, cioè il nostro corpo che si relaziona con la carne piuttosto che con i vegetali? Ha qualcosa a che vedere essere vegani con questo? Sì, nel senso che per chi ama la carne e per chi per anni ha fatto uso di carne, soprattutto vivendo in una società in cui ancora, diciamo, parte di persone che hanno fatto una scelta alimentare diversa vengono abbastanza ghettizzate e posti in solitudine, è difficile fare una scelta del genere. È difficile anche perché nel 99% dei casi hai contro o parenti stretti, perché comunque sia la dieta vegana, per quanto sia salutare, perché comunque non mangiando carne puoi ridurre problemi di colesterolo, di infarto, eccetera eccetera, va fatta bilanciata. Quello che si legge spesso nei giornali, a volte enfatizzato, morto bambino vegano perché malnutrito, bla bla bla bla bla bla, in parte è vero, perché se non viene fatta una dieta integrando tutti i nutrimenti che noi fino a ieri ingerivamo dai prodotti animali, rischiamo delle grosse carenze. Però è fattibile il vivere semplicemente mangiando vegetale. Non è che si è obbligati, come si legge sui giornali, a prendere pillole, pasticche, integratori, boccettine. Mangiare vegetali, solo vegetali, è fattibile. È fattibile. Tenete presente che spesso l'unica cosa che forse andrebbe un pochino integrata è la vitamina B12, perché la vitamina B12 nella parte vegetale si trova solo o quasi esclusivamente nel lievito alimentare, che viene usato diciamo come il grana padano, quindi per condire la pasta o per mettere nelle insalate, però si può rischiare di essere un pochino sotto in carenza con la vitamina B12, però esistono integratori di vitamina B vegetale che, se uno si prende, al massimo insomma gli fanno da supporto all'alimentazione. Per il resto, stando attenti a integrare tutto nella giusta misura, si può vivere serenamente e anche discretamente. Un vecchio pediatra di qui, pace all'anima sua, diceva che da quando sono arrivati gli indiani gli è cambiata la prospettiva, perché come medico riteneva che i bambini andassero nutriti con il sistema tradizionale, quindi integrando vegetali con prodotti animali. Con gli indiani, che carne non ne mangiano, lui sosteneva di essere sorpreso del fatto che i bambini indiani sono in buonissima salute. Ma tra vegetariano e vegano ci sono delle differenze? Sicuramente sì, perché comunque sia tante di quelle, tipo la vitamina B12, un vegetariano la prende dal formaggio, un po' di proteine e di grassi il vegetariano li prende dai latticini o dalle uova, e in realtà i vegani no, quindi i grassi li devono integrare con l'olio, la frutta a guscio, quindi noci, nocciole, oppure l'avocado. Le proteine vegetali devono essere prese da legumi o dal tofu. I carboidrati uguale, dalla frutta ai cereali, legumi, verdure, lenticchie. Per esempio la lisina, che è un amminoacido che si trova nella carne animale, che è quella con cui vengono formati i muscoli e la pelle, si trova nei fagioli e nei legumi. E l'omega 3 è anche quello importante, che i carnivori o gli onnivori prendono dal pesce, va presa invece dai semi di chia o di lino, o dalla frutta a guscio o la verdura a foglia, quindi oppure le alghe. Quindi bisogna stare un pochino attenti a integrare tutto. Per quanto riguarda invece il calcio, che i vegetariani prendono dai latticini, i vegani li devono prendere dalle verdure come i broccoli e la verza. Ma Elisa, non si consumano i prodotti di origine animale perché dietro a questi prodotti c'è uno sfruttamento o c'è comunque un atto di violenza. E hai portato l'esempio delle galline e hai portato l'esempio delle api, che anzi vengono propagandate, forse a torto, forse a ragione, da gli organismi che si occupano di agricoltura come di un sistema integrato efficientissimo per rendere campi e piantagioni ancora più produttivi, senza probabilmente fargli neanche troppo male. Poi le api vengono trasportate in California, per esempio, a impollinare mandorli o noci, e poi, finita l'impollinazione generale, spruzzano veleni che uccidono gli insetti e tutte le api che sono rimaste lì muoiono con loro, non sono più produttive. Tantissime arnie di queste che vengono spostate, lo spostamento è tale, il trauma dello spostamento è tale che molti di questi sciami muoiono. Quindi lì si vede la violenza, o si vede la violenza nelle galline in batteria che fanno le uova. Ma una gallina allevata a casa di una persona, lasciata libera, che mangia quello che gli pare, che fa la vita bella, felice nella campagna, beh, se lascia qualche uovo, perché non mangiarlo? Oppure se le api vengono tenute bene, lasciate libere di volare, di andare dove gli pare, perché prendere loro un po' di miele non sarebbe vegano? Chi è rigidamente vegano ti direbbe di no, perché comunque tu allevi comunque sia una gallina per il tuo sfruttamento, o comunque tieni le api per il tuo sfruttamento. Io ti dico che basterebbe un pochino di buonsenso. Quindi se una persona tiene delle galline, magari, che ne so, salvate da un allevamento intensivo, e gli fa vivere il resto della sua vita in felicità e ti fa le uova, perché no? Stessa cosa per le api. Se hai delle api che stanno lì vicino a casa tua e ti fanno un po' di miele, queste non fanno altro tutto il giorno che svolazzare dove cavolo gli pare, perché no? Sta tanto alla rigidità mentale, di cui spesso vengono anche accusati i vegani, no? Di essere nazisti da questo punto di vista. Per me nella vita bisogna sempre usare il buon senso, e quindi non porsi delle regole troppo rigide se all'animale non viene inferto nessun tipo di male, ecco. Un altro paradosso che trovo in questa filosofia, che è una filosofia, quella vegana, che ha una grandissima dignità, e sul rapporto che abbiamo con gli animali sarebbe importante interrogarci tutti, e probabilmente sarebbe importante fare un passo indietro, quindi consumare meno i prodotti animali, consumarli meglio e permettere agli animali di vivere perlomeno una vita dignitosa. Questo senz'altro. Però chi si intende un pochino di giardinaggio, chi si intende un pochino di orto, sa che anche le piante che sono nell'orto e che producono verdure, legumi o altri cibi ortolani, in qualche modo gli si fa una violenza, perché gli si strappano i frutti, perché si potano in maniera che producano in un certo modo, si obbligano a stare in posizioni naturali. Questo ha a che vedere in qualche modo con la violenza oppure no? Ma secondo me in parte sì. È chiaro che a oggi noi ci siamo concentrati sugli animali perché riteniamo che abbiano un cervello più simile a quello umano, quindi sentano molto di più la sofferenza. Però, come ti dicevo, no, in quella puntata in cui si parlava del bullismo sulle piante, anche le piante subiscono la nostra sofferenza, la nostra violenza, seppur in maniera, diciamo, meno velata, perché non urlano, non gridano, magari loro si appassiscano e basta, però in qualche modo sì. Quindi anche lì sarebbe preferibile evitare di consumare cibi di agricoltura intensiva, insomma, preferire, diciamo, qualcosa che è un pochino più vicino a noi, chilometro zero, raccolte contadini vicini, evitare, anche perché la maggior parte della frutta e della verdura che uno compra al supermercato non sa di niente, perché comunque viene da da serre e da sfruttamento, quindi già loro ti dicano che non sono felici perché quello che producono non ha sapore, non ti trasmette niente se non magari qualche pesticida. Effettivamente in questa orgia di cibi di tutti i tipi, da supermercato, da carrello pieno, effettivamente tanto alle piante come agli animali stiamo forzando la mano e in qualche modo stiamo addirittura cercando di aggirare le leggi della natura, o quantomeno leggi della natura e anche la genetica, insomma, è anche mettere una rana e un pesce insieme, però quelle leggi che noi filosoficamente come umanità ritenevamo leggi naturali. Ritieni, Elisa, che ci sia un modo di ottenere cibi che non subiscano queste influenze negative da parte dell'umanità affamata che cerca di ottenere il massimo utilizzando il minimo delle risorse? Dobbiamo tornare indietro col tempo e tornare a una società un po' meno consumista, dove magari nei supermercati non stanno aperti 24 ore, 7 giorni su 7, in cui non trovi sempre tutto, dalle fragole a Natale, all'uva a Pasqua o d'estate, o qualsiasi altro tipo di prodotto che tu voglia, ma ha un rispetto per il pianeta diverso, quindi rispettando i cicli di vita della natura e anche accontentandosi di mangiare un pochino meno, perché a volte noi consumiamo talmente tante calorie rispetto a quelle che ci servono, alimentando così anche la voglia di consumare, no? Quindi il veganesimo in qualche modo si oppone o cerca di contrastare la mentalità consumistica concentrata in questo caso sul discorso alimentare, chiaro, non i telefonini o le televisioni o le macchine. Purtroppo sì, e questo è anche uno dei suoi limiti, perché io, come vi ho annunciato, non è che vi voglio parlare solo dei pregi, ma una persona che rispetta gli animali dovrebbe non prendere farmaci, perché i farmaci o hanno dentro derivati animali, quindi lattina, uova dentro i vaccini, o sono sperimentati sugli animali. Non andrebbero consumati cibi per gli animali industriali, perché esistono allevamenti di animali che producono cibi per animali, e potete immaginare se già gli animali che servono per alimentare l'uomo vengono trattati male, come vengono trattati quelli per gli animali. Alcuni alcolici, che si pensa siano innocui, in realtà vengono fatti con la colla di pesce, o realizzate la fermentazione con le vesciche dei pesci, la caseina. Quindi non tutti gli alcolici, diciamo, sono vegani, ma ci sono altri prodotti, diciamo, anche abbastanza di moda: l'inchiostro per i tatuaggi, le setole di noi donne che ci trucchiamo, fatte con i peli di visone, oppure vestiti fatti, diciamo, con seta, quindi da bachi uccisi, la borsa di Gucci che è fatta di pelle, oppure alcuni dentifrici sono fatti con la glicerina di origine animale, alcuni ammorbidenti che invece vengono fatti col grasso di bovino, eccetera eccetera. Quindi non è solo l'alimentazione che deve cambiare, e spesso magari uno si concentra su quello e non si accorge che tutto intorno c'è altro che viene usato. E parlandosi dell'ammorbidente, cioè, sinceramente si potrebbe evitare di farlo con il grasso dei bovini, però ci sono alcune industrie che ancora oggi, per risparmiare un po' di soldi, lo fanno con il grasso dei bovini. E non dimentichiamoci del petrolio che è fatto con i resti dei dinosauri. Vabbè, questo per dire che effettivamente c'è da stare molto attenti nell'essere talebani da una parte, però dall'altra sarebbe preferibile prendere coscienza del fatto che i prodotti animali sono ovunque, ci circondano, e ci sarebbe allora da interrogarsi e da domandarsi se questo vale la pena. Effettivamente mangiamo troppo, tanto che non solo l'obesità dilagante, ma l'essere sovrappeso o i malesseri del corpo che pur mangiando poco non consuma abbastanza anche per quel poco che si mangia, e rivedere il nostro stile di vita forse ci aiuterebbe a vivere meglio e a vivere di più? Assolutamente sì, a vivere meglio, a far sì che il pianeta viva meglio, viva di più, e lasciare alle generazioni future, diciamo, un futuro un po' più roseo rispetto a quello che gli si prospetta oggi. Un'agricoltura diversa è fattibile, si parla di permacultura già da 40 anni, è fattibile un modo diverso di trattare gli animali e non è obbligatorio mettere petrolio e prodotti animali ovunque, in particolare il petrolio, e per cui plastiche di tutti i tipi, inquinanti di ogni genere, e questo solo per soddisfare la nostra voglia di consumo che, quando si tratta di cibo, diventa un'ossessione, tanto che sono almeno 20 anni che nel mondo occidentale ci sono i frigoriferi pieni e una grandissima quantità di prodotti, tanto animali quanto vegetali, finisce nel secchio regolarmente. Elisa, grazie di averci introdotto a questa filosofia di vita, ma che comunque, anche per chi non l'abbraccia, è uno spunto di riflessione. Grazie. Grazie a te, Giorgio, e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Big World, e spero che qualcosa vi sia rimasto di questa puntata un po' strana. Mangiate meno carne e evitate di fare del male agli animali, anche col pensiero, perché insomma, se uno sogna di mangiarsi un pezzo di bue che viene dall'America, come certe bistecche che vendono nei ristoranti a Firenze e dicono che è carne italiana, beh, se vi viene questa voglia, pensateci due volte. Grazie.